Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Ci sono i tesori nascosti e noi vi parleremo subito di questo. Ma prima, benvenuti e benvenute a Medius, ascoltiamo i titoli di questa puntata. 180.000 monete nascoste in brocche e anfore del 300 d.C. È il tesoro di Misurata, composto da monete romane rinvenute in Libia e studiato da ricercatori italiani. Keplero scrisse un lungo racconto di fantascienza. Voleva spiegare con un'opera letteraria alcune cose che in altro modo non si potevano dire. Nel laboratorio del CRS4, dove tra algoritmi di compressione dati e nuovi sistemi di visualizzazione si sviluppano le tecnologie alla base della realtà virtuale. Come prendere dai pesci alcuni loro strumenti di navigazione e progettare un robot? È l'obiettivo di un progetto europeo. 186 milioni di donne in età fertile nei paesi in via di sviluppo, Cina esclusa, hanno problemi di fertilità. La fecondazione assistita a basso costo potrebbe risolvere il problema. 108.000 monete di 2.000 anni fa. Ma di chi erano? E come mai lì, tutti insieme, soprattutto? Sentiamo Chiara Albicocco. I tesori di monete d'oro esistono davvero. Questa volta il tesoro non si trova su un'isola deserta nel Mar dei Caraibi, ma molto più vicina a noi. Si tratta del tesoro di Misurata, una città della Libia sul Golfo della Sirte. Qui, nel 1981, sono stati rinvenuti vasi, brocche e anfore cariche di monete, per la precisione 108.000. È una bella sommetta, l'unico problema è che il conio è piuttosto sorpassato, è uscito dal mercato almeno 1800 anni fa. E sì, perché il tesoro risale al 300 d.C. all'incirca. E la storia del ritrovamento è davvero affascinante, ma lo è altrettanto per le ricerche italiane che sono state fatte per svelare i segreti di questo tesoro. Per questo stasera è qui con noi per raccontarci tutto il professor Salvatore Garraffo, che è direttore dell'Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali del CNR di Roma, che ha effettuato gli studi sul tesoro. Buonasera. Ecco, ci deve raccontare questa storia affascinante di questo ritrovamento di 108.000 monete d'oro. No, non sono d'oro le monete, le monete sono di bronzo, però hanno nel corpo una certa quantità di argento, insomma variabile massimo dall'1 al 5%, e poi sono arricchite superficialmente, hanno una specie di patina di argento, insomma non è una vera e propria patina, ma comunque quando furono coniate dovevano sembrare quasi simili a monete d'argento. Ecco, allora ci racconti che cosa succede nel 1981, da chi vengono ritrovate queste monete? Dunque il tesoro è stato recuperato dal Dipartimento dell'Antichità della Libia. Il sito dove è stato rinvenuto è circa 20 km ad ovest di Misurata ed è stato un ricovero fortuito, perché insomma lì c'era in atto uno spianamento del terreno, perché si stava realizzando una grande serra per primizie, insomma. E nel fare alcune fosse, gli scavi sono stati trovati. E quindi sono state già trovate alcune monete. Poi insomma il grosso della scoperta è venuto quando insomma lì c'è stato un caterpillar per spianare il terreno. Ah, ecco. E quindi questo caterpillar si lasciava dietro, insomma, così, come dire, fila di monete. Una scia di monete. Poi insomma il giorno dopo intervenne la sovrintendenza e iniziarono gli scavi regolari, appunto per vedere che cosa c'era, insomma, se c'erano delle costruzioni per recuperare le monete. E qui possiamo fare qualche ipotesi, affascinante o meno, sull'origine di queste monete, che tipo di monete sono, da chi possono essere state portate, perché diceva che erano di epoca romana, no? Sì, guardi, le monete sono comunemente intese come dei folles oppure nummi, e diciamo sono state emesse a partire dalla riforma monetaria di Diocleziano nel 294 avanti Cristo, questo tipo di moneta, è appunto una moneta con una piccola quantità di argento dentro. Quindi una moneta comune per l'impero romano, no? Che in quel periodo si era spinto comunque su quelle coste. Sì, abbastanza comune, anzi, insomma, perché in quel periodo, insomma, proprio con la riforma del Diocleziano, si pose fine, insomma, quasi e diciamo nella totalità dei casi all'emissione locale da parte delle città locali dell'impero della moneta in bronzo, per cui la, diciamo, l'emissione della moneta divisionale in bronzo divenne un fatto, insomma, regolato dall'autorità imperiale. Insomma, ci sono infatti varie zecche nel mondo romano. L'intrapolitania in quel momento non ce n'erano, la zecca più vicina era Cartagine, ma in Africa c'era anche Alessandria. Quindi la moneta divisionale, insomma, non c'è più la moneta delle città, capito, le monete delle città provinciali, ma adesso la moneta anche in bronzo viene coniata direttamente dall'amministrazione imperiale, è una sorta di euro dell'antichità. Certo, diciamo. E quindi che cosa ci faceva lì? Una ingente somma, perché il numero è sicuramente elevato. Sì, insomma, la somma, ecco, diciamo, dipende un poco dall'idea che noi ci facciamo dei rapporti del valore delle monete. Ovviamente. In quel momento, comunque, insomma, non era tantissima, doveva essere, insomma, un po' di libbre d'oro, insomma, diciamo, beh, così, insomma, 1 o 2 chili, insomma, qualcosa del genere, forse un po' di più. Beh, che cosa ci facesse, questo è un punto interrogativo che noi dobbiamo sciogliere, cioè, nel senso che, sicuramente, insomma, con ogni probabilità non erano monete così nascoste da un privato, ma doveva essere una cassa forse cittadina, insomma, oppure del fiscus, per pagare o per ricevere monete. Pagare, cioè, in che senso noi pensiamo a qualcosa del genere? Lì in quel periodo intrapolitano e poi soprattutto, insomma, in quella zona, nella zona attorno a Misurata, insomma, ci dovevano essere già dei problemi con quanto riguarda truppe indigene, insomma, barbari cosiddetti, gli austuriani. Quindi è probabile che ci sia stato un assalto, appunto, di queste, diciamo, barbe dell'interno, e abbiano, cioè, come dire, insomma, lì ucciso, insomma, il presidio o qualcuno, insomma, quello che c'era lì. Abbiano fatto razzia. Evidentemente abbiano fatto razzie, però chi era nel sito ha fatto in tempo a seppellire le monete. Infatti le monete chiaramente erano, diciamo, seppellite poco al di sotto del vecchio piano di campagna, non erano lì attorno, insomma, sono monete furono trovate in un'area che sembra il cortile di un edificio. Ah, quindi non molto profondo. Non molto profondo, però sicuramente, appunto, prima, perché poi sono scomparse tutte, evidentemente il proprietario non è, insomma, chi deteneva le monete non sono riuscito a recuperarle. Quindi c'è stato un evento, appunto, questo evento calamitoso che sicuramente, insomma, è da mettere in connessione con un'invasione, insomma, c'erano anche tracce di incendio, insomma, in questo edificio che era vicino alle monete. Poi, ripeto, il discorso, se era una cassa che serviva per pagare probabilmente truppe ausiliarie del luogo, che ormai, insomma, nel 300, quando si data la perdita del tesoro del 333, il sistema dei forti, della fortificazione del Limes era già crollato, per cui queste, insomma, cittadinanze dovevano, diciamo, difendersi, appunto, con la maggior parte con truppe assoldate localmente. Poteva servire, insomma, per il pagamento dei soldati, per il pagamento di truppe ausiliarie, diciamo, non legionari, perché la legione, cioè, in quel momento non c'era più, e comunque, insomma, il soldo militare veniva pagato in moneta, insomma, di maggior pregio, moneta d'oro, moneta d'argento. Venendo alle vostre ricerche, l'istituto di cui lei è direttore, di che cosa si è occupato? Che tipo di studi avete fatto su questo tesoro? Ma guardi, innanzitutto lo studio, insomma, è quello di tipo storico, poi abbiamo fatto anche, diciamo, uno studio di tipo archeometrico, cioè tipo archeometrico per definire, insomma, come erano fatte, cioè quali erano, appunto, le componenti, insomma, di queste monete, e soprattutto cercato di capire con che tecniche era realizzata l'argentatura superficiale. Quindi da un lato abbiamo usato della strumentazione, appunto, di tipo innovativo, tipo portatile, insomma, che, insomma, ci aiutano a caratterizzare gli elementi, no? E sapere, certo, quant'è la percentuale. Dall'altro, poi, approfittando di alcune monete spezzate, insomma, che si sono ritrovate nei ripostigli, abbiamo fatto anche dell'analisi assieme, insomma, e quant'altro, per cercare di capire la tecnica. Quindi un approccio, come dire, integrale, insomma, a questo tipo di materiale, sia dal punto di vista storico che archeometrico. Per quel che riguarda il materiale, certo. Sì, sì. Senta, è possibile vederlo, è esposto da qualche parte dopo le ricerche che avete fatto adesso? Guardi, il tesoro, guardi, una semplificazione delle monete del tesoro sta al museo di Leptisimania, al Comus, che dista circa 80-90 km dal sito del ritrovamento. Lì sono state restaurate e presso il nuovo museo di Leptisimania c'è una grande sala in cui, appunto, c'è una campionatura di queste monete, sono esposte circa 400 monete. Benissimo, allora grazie professore, il caso di dire, per il suo preziosissimo lavoro. Buona serata. Grazie a lei, arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Il CRS4 è un centro di ricerche collocato in Sardegna che fa un sacco di cose interessanti in molte aree diverse. E oggi con Maurizio Meris andiamo a vedere cosa combinano in un campo tra i più suggestivi delle tecnologie contemporanee, e cioè la realtà virtuale. La rappresentazione digitale, o se vogliamo virtuale, della realtà è un settore di ricerca molto vasto e anche molto evocativo, che a un estremo sviluppa tecnologie e modelli in grado di rappresentare la realtà con un dettaglio sempre maggiore e quindi accumulando anche enormi moli di dati. E dall'altro si pone il problema di come visualizzarli, cioè di come renderli fruibili. E qui la ricerca si confronta sia con il desiderio di rappresentare oggetti sempre più grandi e in sempre maggior dettaglio. Pensiamo per esempio a versioni evolute di applicativi come Google Earth. Sia si deve confrontare con le tecnologie in continua evoluzione nel campo proprio della visualizzazione, come per esempio la visualizzazione 3D. Le applicazioni sono numerosissime, si va dal geoviewing, quindi Google Earth appunto, alla visualizzazione scientifica, per esempio modelli 3D di parti anatomiche complesse come il cervello piuttosto che un aneurisma vascolare, fino anche alla formazione e all'intrattenimento, sono tutte possibili applicazioni degli studi svolti in questo campo. Il laboratorio di acquisizione, distribuzione e visualizzazione di modelli 3D complessi di Pula, in provincia di Cagliari, è appunto un centro di eccellenza a livello mondiale dove queste varie problematiche si affrontano in maniera integrata. Ed è nato questo laboratorio da qualche anno all'interno del centro di supercalcolo del CRS4, che è una dotazione fondamentale per svolgere questo tipo di attività di ricerca. Cerchiamo quindi di capire con Ruggero Pintus, ricercatore appunto del CRS4, quali sono le sfide in questo momento e in che direzione si sta andando. Buonasera Pintus. Buonasera a lei. Dunque, come lei già accennato, noi ci occupiamo di acquisizione e visualizzazione di modelli 3D complessi. Diciamo innanzitutto che cos'è un modello 3D complesso. Ci sono tantissime caratteristiche che possono attribuire la complessità a un modello 3D. Diciamo che quella fondamentale è la grandezza del dato. Pensiamo per esempio agli attuali sistemi di acquisizione 3D, tipo acquisizione da satellite, acquisizione di dati medicali come per esempio TAC ad altissima risoluzione, gli ultimi sistemi per esempio di scansione laser che sono capaci di acquisire interi edifici, per esempio nell'ambito dei beni culturali, intere chiese, statue, con una precisione altissima, precisione millimetrica e submillimetrica. Quindi stiamo parlando di dati che possono arrivare a centinaia di milioni di punti nello spazio. Certo, immaginiamo virtuale. Di rappresentare una chiesa millimetro quadrato, esatto, per acquisire... millimetro quadrato. Ecco, dov'è il collo di bottiglia nel maneggiare tutta questa informazione? Ci sono due grossi colli di bottiglia. Il primo, se vogliamo, quello locale, cioè quello del PC che deve gestire tutti questi dati. Il secondo problema invece è la distribuzione remota, cioè quella tramite rete internet. E lì il collo di bottiglia è ancora più stretto, più importante, perché chiaramente la banda internet, per quanto anche quella adesso sia decisamente molto alta rispetto al passato, però non è sufficiente. Quindi la capacità di acquisizione è molto elevata in questo momento rispetto alla capacità di elaborazione del PC, diciamo, che sta sulla scrivania di tutti noi, e al canale con cui si possono trasmettere informazioni attraverso la rete. Esattamente, poi questi tre aspetti ovviamente col passare del tempo aumentano tutti e tre di pari passo, quindi il problema rimarrà sempre. Okay. Infatti l'unico modo per risolvere questo è costruire degli algoritmi, dei software che sono capaci di gestire in maniera intelligente questo dato. Proprio gli algoritmi che sono già stati sviluppati dal Visual Computing Group del CRS4 appunto mirano a ottenere questi due risultati. Innanzitutto il fatto che si possa visualizzare un dato enorme all'interno di un PC assolutamente comune. Sì. E l'altro invece è la capacità di poter visualizzare questo dato online. Quindi trasmettendolo, ecco, entriamo poi in questo. Voi cosa fate? Trasmettete un pezzo alla volta di questo modello complesso, solo quello che serve, come dire, un gioco di equilibri, per così dire. Esattamente, noi trasferiamo solo i dati che servono per la visualizzazione di ciò che si sta guardando in quel momento. Cioè, per esempio, immaginiamoci se dobbiamo navigare all'interno di una basilica e vogliamo vedere un dettaglio, ovviamente noi trasferiamo non solo unicamente quel dato, ma lo trasferiamo anche alla risoluzione opportuna, per cui l'utente che lo vede non si accorge che dietro c'è tutto questo gioco di decisione di quale dato deve essere spedito, e lui ha l'impressione di avere sotto mano tutto il dato in tempo reale con fluidità, e in sostanza la meta finale è la parola realisticamente, cioè uno può navigare all'interno del dato in maniera realistica. Ecco, direi che questo ci porta direttamente alla domanda successiva, perché appunto digitalizzazione della realtà e visualizzazione sono un po' gli ingredienti di base della cosiddetta realtà virtuale, intorno alla quale c'è un immenso immaginario, tutta una letteratura e anche una filmografia. Andiamo dal dispositivo che si collega direttamente al cervello, al visore appoggiato sulla testa, fino all'ologramma. Ecco, oggi si può dire qualcosa della direzione in cui stiamo andando? Sì, lo scopo primario è quello di poter far interagire una realtà virtuale con l'utente. Diciamo un esempio, i tre principali visualizzatori ci sono quelli tipo stereoscopia, dove l'utente deve indossare degli occhialini particolari per poter avere l'impressione. Dei caschi. Esattamente, o anche i caschi, che quella è la realtà immersiva, dove l'utente sempre comunque deve indossare qualcosa. Certo. Diciamo che in questo momento invece la strada più battuta è quella degli schermi cosiddetti olografici, cioè degli schermi che permettono una visualizzazione di un oggetto come se fosse davanti all'utente, senza richiedere l'utilizzo di occhialini o caschi ingombranti, eccetera. Mm-hmm. L'altra cosa importante degli schermi olografici è che più utenti possono stare davanti a usufruire contemporaneamente. Diciamo che tra i due scenari, quello diciamo di Strange Days con il ragnetto che si mette in testa e comunica col cervello, e il ponte ologrammi dell'Enterprise, siamo più vicini al ponte ologrammi dell'Enterprise. Assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie allora Pintus, buon lavoro. Grazie a lei, buona serata. Giovanni Keplero, il grande astronomo, scrisse un racconto e è ospite qui a Möbius questa sera Anna Lombardi. Buonasera Anna Lombardi. Buonasera a lei. Che ha curato una edizione di questo racconto. Il racconto è intitolato Il sogno, no? Sì. Lei ha curato un'edizione pubblicata da Sironi Editore, un'edizione commentata. Senta, vogliamo subito sentire un breve estratto da questo racconto di Keplero, dal sogno. Lo sentiamo e poi lo commentiamo. Qualunque cosa o nasca dal suolo o si muova su di esso ha una dimensione mostruosa. Tutto cresce molto velocemente, ma tutto ha vita breve, sviluppandosi fino a raggiungere una massa corporea enorme. I privolvani non hanno né un rifugio sicuro né una dimora permanente. Essi vagano in branchi, percorrendo l'intero globo nello spazio di un giorno. Chi ha piedi, con i quali sono di gran lunga più veloci dei nostri cammelli, chi volando, chi infine inseguendo sulle navi le acque che si ritirano. Se invece hanno bisogno di sostare per un certo numero di giorni, allora strisciano dentro le grotte, ognuno secondo la propria natura. La maggior parte vive sott'acqua e poiché per costituzione tutti quegli esseri respirano molto lentamente, essi vivono sui fondali, aiutando con questo comportamento la natura. Si dice infatti che in quei profondissimi abissi d'acqua il freddo si conservi anche quando le onde in superficie ribollono sotto il sole. Qualunque cosa indugi allo scoperto è lessata dal sole a picco e finisce in pasto agli eserciti di indigeni vagabondi che sopraggiungono. La prima cosa che le chiedo, Anna Lombardi, è chi sono questi privolvani di cui si parla in questo breve estratto? Sì, il sogno, questo racconto, prevede un viaggio immaginario sulla Luna. E sulla Luna in cielo brilla la nostra Terra, che da loro è chiamata Volva, perché la caratteristica principale per loro è che continua a ruotare su se stessa pur rimanendo ferma in cielo. Allora, come noi dalla Terra vediamo sempre la stessa faccia della Luna, sulla Luna metà degli abitanti vedono sempre la Terra in cielo e quindi sono subvolvani, ovvero vivono sempre sotto la volva, mentre l'altra metà degli abitanti si chiamano privolvani, cioè sono privi della visione della volva, che vivono in maniera molto precaria perché appunto soggetti alle grandi escursioni termiche che ci sono sul nostro satellite. Come mai Keplero sente il bisogno di scrivere questo racconto? È una maniera per comunicare a un pubblico un po' più vasto di quello che aveva solitamente le idee nuove sull'astronomia copernicana. In particolare l'idea era questa: far vedere il cielo da un punto di vista diverso e far comprendere come alcuni fenomeni siano semplicemente legati a dove si vive e al punto di osservazione. In particolare l'idea di essere fermi nell'universo. Ecco quindi che questo racconto tendeva a smontare quelli che erano i principali punti contrari all'astronomia di Copernico. Ci sono altri punti curiosi e strani in questo racconto? Beh sì, tutto il racconto si può leggere su diversi piani, come un racconto semplice, anche breve, appunto di questo protagonista che immagina di incontrare un demone che gli fa vivere, gli racconta un viaggio sulla Luna e che cosa appunto potrebbe vivere in questo viaggio. Però appunto ogni particolare di questo racconto è allegorico, quindi a seconda di quella che è il bagaglio culturale del lettore può apprezzare un diverso appunto piano di lettura, certo. E quindi apprezzare il dibattito sulle astronomie, apprezzare le polemiche contro il potere che cercava appunto magari di intromettersi in questo dibattito. Ecco, senta, questo personaggio Keplero, grandissimo astronomo, ha poi anche tutto un lato della sua vita familiare che è complesso, che è difficile. Certo, appunto, gli stessi personaggi sono specchi di alcuni aspetti proprio autobiografici della vita di Keplero, per cui il protagonista Duracoto ci ricorda lo stesso Keplero e la madre del personaggio ricorda molto la madre di Keplero, una donna, una figura complessa che sarà poi perseguitata per la sua affinità con certe pratiche all'epoca viste molto male. Stregoniche un po' interpretate. Sì. E mi pare di capire che Keplero abbia cercato di aiutare in vari modi questa madre che certamente gli dava problemi, però allo stesso tempo un po' lui si arrabbiava anche per il fatto che questa donna era oggetto di persecuzioni immotivate, no? Certo, nel Somnium lui dice di essere figlio di questa Fioxilde, di questa madre che rappresenta appunto l'alchimia, la stregoneria, e però supera questa visione del rapporto con la natura. Ecco, nella sua vita egli da un lato sì, probabilmente condanna questo mettersi nelle grane da parte di sua madre, però nello stesso tempo lo vede quasi come una conseguenza, un effetto del suo divulgare il copernicanesimo, cioè lui proprio crede che le persecuzioni sofferte dalla madre siano quasi colpa sua. Ricordo allora il titolo del libro, Il sogno di Keplero, edito da Sironi e curato da Anna Lombardi, con la quale abbiamo fatto questa chiacchierata questa sera. Grazie Anna Lombardi. Grazie a voi, buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Vi parlo di pesci ora, però di pesci robot, ma anche di pesci e basta. Lo faccio con l'ingegner Lorenzo Rossi. Buonasera, ingegner Rossi. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Dell'IIT, che è un istituto dal quale ci aspettiamo molto per la ricerca in Italia, è collocato a Genova, è un istituto eminentemente interdisciplinare, mette insieme robotica, nanotecnologie, biotecnologie, c'è anche una sezione che riguarda le neuroscienze. Però, ingegner Rossi, la robotica, in particolare la robotica umanoide, è un po', diciamo, il nucleo centrale da cui è partito l'istituto, l'IIT, no? Sì, questo è il filo conduttore che guida la nascita della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, certo. Quindi diciamo che tutte le attività che fanno riferimento alla Fondazione hanno poi come fine ultimo la robotica umanoide o comunque più in generale la robotica. Ecco, appunto, perché qui non è che parliamo di umanoidi ma di pescioidi, insomma, state interessandovi dei pesci di un pesce robot che è all'interno di un progetto europeo che vede anche altri partner insieme a voi. Dunque, che i pesci siano molto efficienti nel nuotare, questo non ci sorprende. È un'efficienza però mostruosa rispetto ai nostri mezzi per andare sopra e sotto l'acqua. Sì, in questo ha assolutamente ragione ed è questo uno dei principali scopi del progetto. Intanto, per descrivere veramente brevemente in 10 secondi il progetto, partirei dall'acronimo che è FILOSE e il cui significato è Fish Locomotion and Sensing. Quindi i due scopi principali del progetto sono la locomozione subacquea e il sensing, come i pesci percepiscono l'ambiente subacqueo. Che è il punto di svolta di tutta la vicenda, perché in che modo loro riescono ad espletare questa grande capacità di adattarsi alla fluidodinamica? Ecco, trattandosi ovviamente di un ambiente subacqueo dove tutto sommato abbiamo acque torbide piuttosto che mancanza di luce, i pesci si avvalgono di due organi sensoriali posti lungo il fianco del pesce stesso, che sono tecnicamente definiti come linea laterale e che sono forse l'aspetto più innovativo di questo progetto. Lo sviluppo di un array di sensori situati lungo il fianco di questo pesce, di nanosensori, che fornirà un'immagine idrodinamica dell'ambiente circostante. Ecco, procediamo un attimo per passi. Questi sensori ci sono, diciamo, sui pesci originali, quelli veri, sì, no? Sì, sì, sì. In alcuni tipi di pesci si possono osservare anche a occhio nudo, si vede proprio una linea di colore diverso correre lungo il fianco del pesce. Ah, ecco, vede. E con questi sensori, ovviamente, il tutto diventa estremamente istintivo, come diciamo pure in noi animali, per esempio la capacità del nostro corpo di rimanere in equilibrio, mica che ci pensiamo, no? Siamo abilissimi nel continuare a esercitare questa funzione di equilibrio e riequilibrio. Ecco, nei pesci avviene altrettanto, loro attraverso questi sensori riescono a cogliere, come dire, le modalità migliori per inserirsi nelle correnti, nei fluidi? Esattamente, esattamente. Questi sensori che hanno un po' le funzioni che hanno i peli che abbiamo all'interno dell'orecchio interno, forniscono questa immagine, tra virgolette, al pesce del suo ambiente circostante e come adattarsi a questo ambiente. Questo significa anche trovare una certa efficacia ed efficienza nel nuotare attraverso le varie correnti piuttosto che attraverso le varie turbolenze. E in particolare, per esempio, proprio quando la turbolenza è contraria al moto che si vuole svolgere, come per esempio potrebbe essere risalire un fiume. Il vostro pesce robot punta ad avere lo stesso sistema di sensori? Esattamente, esattamente. Sono dei sensori estremamente innovativi che vengono progettati all'interno di ITI, dal Dipartimento di Nanobiotecnologie, e che forniranno appunto i dati che in un secondo tempo elaborati permetteranno al pesce di muoversi nel modo più naturale e più efficiente possibile. Quindi vuol dire che questo robot sarà dotato di una movimentazione abbastanza simile a quella dei pesci, cioè la capacità di essere ondulatorio, insomma, nel movimento. Sarà così? Sì, il più simile possibile. Naturalmente siamo ancora purtroppo lontani dall'efficienza di un muscolo, da riuscire a realizzare un muscolo artificiale che sia paragonabile a quelli reali. Certo. Ecco, non vorrei darle un'informazione che magari la sconvolge, però i pesci non hanno le eliche. Esatto. Come voi supplite a questa cosa? Cioè il vostro robot si muove senza avere un sistema di spinta, sì, come dire, eliche o oggetti, come va avanti? Sì, sì, questa è l'idea. Allora, il sistema di propulsione principale sarà probabilmente comunque una coda che sbatte, tra virgolette. Ah, quindi tipo pesce vero. Tipo pesce vero. Ah. Dopodiché dovremmo riuscire a realizzare tutta una serie di ulteriori meccanismi di attuazione che prevedono la variazione della rigidità del corpo e comunque una certa sinuosità del corpo, quindi riuscire a pilotare in qualche modo le anse del corpo del pesce. Quanto sarà grande all'incirca? 50 centimetri, dovremmo riuscire a rimanere entro i 50 centimetri. Beh, insomma, una bella cerniotta, 50 centimetri è un bel sì, pesce. Ha ragione, è un carangiforme tecnicamente parlando, quindi sì, può paragonarlo a una cernia. Per il momento però il vostro pesce non va in mare, cioè non lo sperimentate già in ambienti acquatici naturali, siete in laboratorio. Sì, siamo vincolati a un acquario e per passare ad un ambiente reale dovremmo affrontare tutti i problemi di autonomia di un robot. Certo. E quindi coinvolgono le batterie, il consumo energetico, la capacità di elaborare autonomamente i dati senza avere alle spalle una workstation piuttosto che un sistema di elaborazione dati. E problemi che attualmente sono al di fuori dello scope del progetto stesso. Ecco, veniamo appunto a quest'ultimo aspetto. Il sistema di sensori individuerà tutta la fluidodinamica intorno al corpo del pesce, però questi sono tutti dati che devono arrivare a un cervello centrale. Per il momento non è sul pesce, non so se ci sarà, ma insomma voi avete bisogno di una bella elaborazione per poi far decidere qual è la movimentazione migliore. Ha assolutamente ragione. In questo momento non riusciamo a fare tutta l'elaborazione dati a bordo, ma è comunque uno dei filoni di ricerca di IT, in particolare del mio gruppo, cioè un computer in grado di elaborare massive quantità di dati consumando poco e pesando poco soprattutto. Lorenzo Rossi, grazie. Appena lo mettete in mare, immagino siete a Genova, lo metterete in mare, no? Sì. Ci chiami, vogliamo vedere, avrete dei filmati su come si muove questo pescione. Certamente. Ci vorrà un po', abbiamo capito, no? Però. Sì, il progetto si svolge, come quasi tutti i progetti europei, in un arco di 36 mesi. Abbiamo iniziato lo scorso febbraio, quindi abbiamo davanti ancora 2 anni e mezzo. 2 anni e mezzo, però non sono neanche molti. Va bene, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, altrettanto, buona serata. Buona serata. E no! E no! E no! Non si può! Rischia di rovinare una carriera con una testata indecente, Zidane! I fatti, dunque, sono andati così. Quella notte del 9 luglio 2006, all'Olympia Stadion di Berlino, quando la finale di Coppa del Mondo era a 12 minuti appena dal fischio di chiusura, il più grande calciatore del mondo, nel giorno più fulgido della sua carriera, sotto gli occhi esterrefatti dell'intero telepianeta, profittando di un ignaro difensore avversario che l'aveva dileggiato, ha fermato di colpo l'orologio della storia. Bene, dalla prima parte di queste registrazioni che avete sentito, senz'altro avete capito dove siamo finiti. 3 anni fa, 1 mese fa, la terribile testata di Zidane. Forse il testo secondo vi ha sorpreso un po' di più, è tratto da una pièce teatrale. L'autore ce l'ho in linea, Sergio Manghi. Buonasera Sergio Manghi. Buonasera a lei. Lei però non è un autore di teatro, ma è un docente di sociologia dei processi culturali comunicativi all'Università di Parma. Qui però lei è anche portatore di una riflessione di tipo antropologico, psicologico, che lei ha fatto intorno alla figura di Zidane e al tragico fatto, chiamiamolo pure così. Sembra di capire che la tesi da cui lei parte è che quella testata Zidane pochissimo pensava di darla a Materazzi, invece era una testata alla Francia, al suo paese. Esatto, questa è la tesi controintuitiva e forte. Zidane ha dato una testata alla Francia, di cui era in quel momento il simbolo più importante per tutta la Francia, e contemporaneamente quindi l'ha data anche a se stesso in quanto simbolo della Francia. Dobbiamo effettivamente ricordarlo, in quel periodo in cui in Francia ci sono grandi disordini con le periferie delle grandi città dove gli immigrati protestano. I 2 giovani rimangono uccisi. Gravi disordini, quindi. È vero che Zidane fu indicato come un personaggio popolarissimo e in grado di fare da mediazione, perché certo lui ha un'origine algerina. Certo, Zidane in quel momento è stato eletto a simbolo di unità del paese in un momento di gravissima crisi, una grave crisi d'identità della Francia, sì, nella quale Zidane era un personaggio amato da tutti, dalle banlieue fino al presidente Chirac. Non era più in nazionale da tempo ed è stato chiamato a gran voce a tornare a comandare la nazionale francese. Un onore non comune, ma anche un carico non comune. E si trova in una partita che sta andando male. La Francia non riesce a superare l'Italia. Lei dice in quel momento la tensione di un fallimento che si presenta diventa qualcosa che lo disorienta completamente. Zidane aveva assunto su di sé una promessa straordinaria, quella di far brillare la Francia nel cielo mondiale. In quel momento erano riunite 2 miliardi e mezzo di persone a vedere quella partita. Sì. E aveva su di sé questa promessa che, pur giocando meglio la Francia, rischiava ormai di non riuscire a mantenere. È soltanto a pochi minuti dalla fine che, pur in un momento in cui la squadra gioca meglio, la squadra francese gioca meglio, Zidane dà quella testata che lo porta a essere espulso. Perché lei dice che tutto quel dibattito su che cosa aveva detto Materazzi, insomma in campo si dicono cose tremende, non poteva essere quella per un super professionista la provocazione. Materazzi è diventato un pretesto. Certo, un pretesto, in parte un capro espiatorio per cose che tutti, chi gioca a calcio o chi conosce un po' il mondo del calcio, sa che fin da ragazzini le parolacce volano. Un gesto che nasce da una profonda sofferenza incontrollabile. Ecco, senta Manghi, lei insieme ad altri ha costruito un piccolo spettacolo che Adesso io lo dico, insomma, è disponibile, cioè lei può andare a raccontare nei locali con come sono testi e musica questa vicenda e questa sua lettura. Sì, è uno spettacolo per voce recitante, diapositive e musiche originali del maestro Fulvio Redeghieri per fisarmonica e violoncello, che è una accoppiata insolita ma molto efficace. Bella. Brevemente, Vanghi, allora non abbiamo problemi a fare pubblicità. Per vedere Zidane e la testata alla Francia, cos'è? Cioè, si va su un sito internet e... Beh, è sufficiente scrivere email sergio.manghi@tin.it. Grazie Manghi e buon lavoro. Grazie a voi e arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. C'è stato un convegno a Firenze nel quale si è discusso di un problema grave e mondiale, l'infertilità nelle donne, quelle che vivono nei paesi in via di sviluppo. È di questo che ora vi parla Barbara Gallavotti. Circa 186 milioni di donne in età riproduttiva residenti in paesi in via di sviluppo, Cina esclusa, hanno problemi di infertilità. L'infertilità può sembrare un problema minore in paesi che devono vedersela con guerre, carestie, malattie come l'AIDS, difficoltà quotidiane inimmaginabili e che per giunta spesso sono anche sovrappopolati. Invece, per chi ne è colpito, è una tragedia, perché proprio in quei paesi è particolarmente difficile per una donna trovare un ruolo sociale che prescinda dalla maternità. Se ne è recentemente parlato nel convegno annuale della Società Mediterranea per la Riproduzione Assistita, che quest'anno si è tenuto a Firenze. Ci racconta la discussione Pieraldo Einaudi, medico ginecologo e organizzatore del convegno. Buonasera. Buonasera. Allora, ci spiega com'è la situazione? Beh, la situazione è, come ha detto lei, certamente molto complessa, perché non essendo la sterilità un problema primario, apparentemente perlomeno, viene vista un po' dai governi come un problema da non curare. Ecco. Per cui vengono stanziati pochi soldi, vengono impegnate poche risorse in quella direzione, mentre molto si dovrebbe fare, per esempio, nella direzione della prevenzione, che sarebbe certamente importante, ma per prevenire proprio futuri problemi di infertilità, ecco, allo stesso tempo bisognerebbe investire per curare quelli che oggi hanno infertilità. Ecco perché da noi in Occidente la causa principale di sterilità o comunque di problemi riproduttivi è dovuta al fatto che tendiamo a fare figli particolarmente tardi, mentre in questi paesi qual è il problema? I problemi legati alla nostra realtà sono appunto quelli dell'età e quelli del fattore maschile, che ovviamente prende ormai il 50% dei problemi di infertilità, e in questi altri paesi, soprattutto nei paesi subsahariani, sono le malattie sessualmente trasmesse, oppure gli aborti praticati in condizioni assolutamente non adeguate, per cui, e le infezioni postparto che sono una percentuale molto alta di cause di infertilità proprio a seguito di queste pratiche. A volte quindi riescono a fare un figlio e poi non riescono a farne più, altre volte non riescono a fare un figlio perché hanno fatto pratiche abortive o perché hanno avuto malattie sessualmente trasmesse, clamidia, che hanno chiuso o occluso le tube, che costituiscono per la prima causa di infertilità in questi paesi. Voi state lavorando anche alla messa a punto di trattamenti che siano possibili economicamente per questi paesi? Certo, perché la realtà economica di quei paesi non è certo quella delle nostre realtà, e essendo questi trattamenti a tutti ad alta tecnologia, devono essere in qualche modo tradotti e semplificati senza perdere di qualità e di efficacia, o quantomeno perdendo il meno possibile di efficacia, essendo sempre di una efficacia adeguata, quindi riducendo anche i costi. Le industrie farmaceutiche dovrebbero impegnarsi nella riduzione dei costi dei farmaci necessari a volte per stimolare l'ovulazione, per poter produrre più ovociti. Le industrie tecnologiche dovrebbero favorire la produzione di materiali a basso costo o comunque che permettano procedure come dei sistemi estremamente semplificati che eliminano i laboratori della riproduzione assistita in parole povere, i gameti, spermatozoi e ovociti vengono inseriti direttamente in una sorta di micro incubatore che viene poi deposto in vagina e lì si realizza l'embrione che poi verrà rimesso e riposizionato in utero. Oppure altri sistemi con le tecniche più semplici, perché non è necessario andare su tecnologie estremamente complesse a volte per curare l'infertilità in questi paesi. Se le tube sono aperte o in qualche modo sia possibile riaprirle, anche una semplice inseminazione intrauterina, che è una tecnica a basso costo ed è anche facile da imparare, perché tutte queste altre tecniche hanno bisogno di training piuttosto importanti, mentre questa tecnologia a basso costo può essere utilizzata ed avere successo anche in realtà complesse come quelle appunto subsahariane o del Middle East o altre realtà sempre dei paesi in via di sviluppo. Ecco, da noi un trattamento di fecondazione assistita, lei mi corregga, costa tipicamente alcune migliaia di euro. Esatto, esatto. È possibile pensare che questi trattamenti, che sono poi da poche decine di euro o da poche centinaia, siano poi utilizzabili anche in Occidente? Questa è una domanda che non saprei dirle. È chiaro che ci possono essere delle realtà o dei livelli di trattamento diversi, sempre essendo molto chiari e trasparenti con le persone, con i pazienti, che devono sapere. A volte alcuni trattamenti, alcuni farmaci producono dei risultati migliori di altri. Questo noi lo vediamo nei congressi o nelle nostre pubblicazioni scientifiche, e il nostro dovere è quello di proporre in questi casi le cose con massimo successo. Poi chiaramente si può proporre anche situazioni con risultato più basso, in linea di massima dovrebbero essere i pazienti a dire io voglio andare su questo o quest'altro. Sicché non saprei rispondere alla tendenza, io dovessi farei un qualcosa che mi dà il massimo del risultato, e chiaramente i costi sono sempre un pochino più alti. Sul fronte della prevenzione state portando avanti dei progetti? Dunque, non personalmente, in questo momento non nell'ambito della società della riproduzione. Altre società stanno lavorando con i governi per favorire un miglioramento dell'educazione alle ragazze, un miglioramento dell'educazione alle donne, perché la prevenzione è a quel livello. Se si previene le ragazze dai rapporti a rischio, o comunque sia da rapporti a rischio per gravidanza, quindi dovendo ricorrere poi magari a un aborto non eseguito in maniera ottimale, o comunque sia un'educazione sulla trasmissione delle malattie sessuali. Non dimentichiamo che ci sono ancora malattie anche nei paesi africani come la tubercolosi, che ancora sono molto presenti. Quindi se da noi abbiamo malattie tipicamente delle condizioni migliori, delle migliorate condizioni di vita come l'endometriosi, per cui facciamo figli più tardi, loro hanno malattie che da noi erano apparentemente debellate fino a quando non c'è stato questo riscambio di popolazioni che ha riportato anche qui da noi magari tubercolosi pelviche, per esempio, che possono essere ugualmente molto implicate nelle condizioni di infertilità. Dal punto di vista operativo converrebbe entrare in contatto con i governi per realizzare dei piani di prevenzione veramente generalizzati. Si stanno facendo degli scambi fra medici nostri che vanno nei paesi africani a vedere e imparare le situazioni, ma non siamo nella condizione di poter fare prevenzione diretta. Ecco, questo sono casi isolati ma non organizzati. Grazie Pieraldo Einaudi, buonasera. Buonasera. Questa puntata in cui Moebius vi ha parlato di tesori nascosti, di pesci robot e della mamma di Keplero si chiude qui. Buona serata e buone giornate di vacanza per chi ancora ne ha da spendere. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.